Chi sprezza vuol comprare, già si sa. Appunto di te cerco, vieni qua. Dov'è mia moglie? Il conte. La vostra fida moglie in questa oscura stanza vicina. Il suo contino aspetta. Nella camera oscura? Oh, maledetta! Vado tu a nascondermi. E se posso sorprenderla? Le rompo il legno addosso. Ma vado bene anch'io a goder questa scena.